Bloch non riuscì in nessun modo a strappargli una parola sulla questione della colpevolezza di Dreyfus, né un pronostico sulla conclusione della causa civile allora in corso. In compenso, Norpois non si fece pregare a fornire alcuni dettagli sulle possibili conseguenze della sentenza. «Se sarà una sentenza di condanna», osservò, «verrà probabilmente annullata, perché è raro che in un processo con tante deposizioni testimoniali non vi sia qualche vizio di forma da impugnare. Ma, tornando alla chiassata del principe Henri d'Orléans, dubito alquanto che sia piaciuta a suo padre». «Credete che Chartres sia per Dreyfus?» chiese la duchessa con aria sorridente e scandalizzata, occhi tondi, guance rosate, il naso chino a sfiorare il piatto dei pasticcini. «No, davvero, volevo semplicemente dire che in tutta la famiglia, da quel punto di vista, c'è un senso politico di cui si è potuto osservare il nec plus ultra nell'ammirevole principessa Clémentine e che suo figlio, il principe Ferdinand, ha osservato come un prezioso retaggio. Il principe di Bulgaria non avrebbe certo abbracciato lui, il comandante Sterasi. Avrebbe preferito un soldato semplice», mormorò Madame de Guermantes, che si trovava spesso a pranzo col bulgaro in casa del principe di Joinville. E una volta, alla sua domanda se non fosse gelosa, gli aveva risposto «Sì, monsignore, dei vostri braccialetti». «Non andate al ballo di Madame de Sagan stasera?» chiese il signor di Norpois a Madame de Villeparisis per interrompere il colloquio con Bloch. Il mio amico non era affatto antipatico all'ambasciatore, il quale, non senza ingenuità, ci disse in seguito, riferendosi senza dubbio alle tracce, ancora avvertibili nell'eloquio di Bloch, della moda neo-omerica che egli aveva peraltro abbandonata, «è abbastanza divertente con quel suo modo di parlare un po' vecchiotto, un po' paludato. C'è mancato poco che dicesse le dotte sorelle come Lamartine o Jean-Baptiste Rousseau. È una cosa talmente rara ormai nella gioventù d'oggi, e lo era anche in quella che l'ha preceduta. Anche noi eravamo un po' romantici». Ma per singolare che potesse apparirgli l'interlocutore, Norpois pensava che il colloquio fosse durato anche troppo. «No, signore, non vado più ai balli», rispose la marchesa con un grazioso sorriso di vecchia. «E voi ci andate? Sono cose che convengono alla vostra età», aggiunse, avvolgendo in un solo sguardo il signor di Châtellerault, il suo amico e Bloch. «Sono stata invitata, però», tenne a precisare, affettando scherzosamente d'andarne fiera. «C'è chi è venuto ad invitarmi». Chi? Era la principessa di Sagan. «Io non ho l'invito», disse Bloch, pensando che Madame de Villeparisis gliene avrebbe offerto uno, e che Madame de Sagan sarebbe stata entusiasta di ricevere l'amico di una donna che era andata a invitare di persona. La marchesa fece finta di nulla e Bloch non insisté, perché c'era una questione più seria di cui voleva parlarle e per la quale le aveva appena chiesto un appuntamento di lì a 2 giorni. Essendogli giunto all'orecchio che 2 giovani aristocratici avevano dato le dimissioni dal circolo di Rue Royale, diventato ormai, a sentir loro, un porto di mare, aveva in animo di chiedere a Madame de Villeparisis che lo aiutasse ad entrarvi. «Non è un po' falso chic, un po' snob di second'ordine da questi Sagan?» chiese sarcasticamente. «No, davvero, è quel che abbiamo di meglio nel genere», rispose il signor d'Argencure, che s'era impadronito di tutte le finezze parigine. «Allora», ribatté Bloch con tono solo a metà ironico, «è quello che si chiama un avvenimento, uno dei grandi appuntamenti mondani della stagione». Madame de Villeparisis interrogò gaiamente Madame de Guermantes. «Tu che ne dici? È un grande avvenimento mondano questo ballo di Madame de Sagan?» «Non è a me che bisogna chiederlo», rispose ironicamente la duchessa. «Non sono ancora riuscita a capire cosa sia un avvenimento mondano. Del resto, le mondanità non sono il mio forte». «Ah, ero convinto del contrario», disse Bloch, prendendola alla lettera. E ricominciò, per la disperazione del signor di Norpois, a porgli una quantità di domande sull'affare Dreyfus. Il marchese dichiarò che, al lume di naso, il colonnello du Petit Déclin gli dava l'impressione di un cervello un po' confuso e che forse non era stata una scelta molto felice quella di affidargli qualcosa di così delicato e che esige tanto sangue freddo e discernimento come un'istruttoria. «So che il Partito Socialista chiede a gran voce la sua testa, oltre si intende all'immediata scarcerazione del detenuto dell'Isola del Diavolo». Ma non mi pare che siamo ancora ridotti al punto di dover passare sotto le forche caudine dei signori Giraud Richard e compagni. Questo affare per il momento è una batassa davvero ingarbugliata. Non dico che non vi siano, da una parte come dall'altra, cose alquanto turpi da nascondere, né che certi protettori, più o meno disinteressati, del vostro uomo, non possano essere mossi da buone intenzioni. Ma, come sapete, il pavimento dell'inferno ne è lastricato, aggiunse con uno sguardo d'intesa. Essenziale che il governo dia l'impressione di non cedere alle fazioni di sinistra più di quanto non debba arrendersi, mani e piedi legati, alle intimazioni di non so quale truppa pretoriana che poi, credetemi, non è certo l'esercito. Va da sé che, se si verificasse un fatto nuovo, dovrebbe essere avviato un procedimento di revisione. È una conseguenza ovvia. Pretenderlo e voler sfondare una porta aperta. Il governo, allora, dovrà farsi sentire con estrema chiarezza, se non vorrà abdicare alla sua prerogativa essenziale. Dare un colpo al cerchio e uno alla botte non sarà più sufficiente. Bisogna dare dei giudici a Dreyfus. E non sarà difficile, benché nella nostra dolce Francia, dove ci dilettiamo tanto a calunniare noi stessi, abbia preso piede l'andazzo di credere o lasciar credere che per sentir risuonare la verità e la giustizia occorra attraversare la Manica, il che assai spesso è semplicemente un itinerario più tortuoso per raggiungere la Sprea. Non è solo a Berlino che si trovano dei giudici. Ma quando il governo prenderà l'iniziativa, saprete dargli ascolto voi al governo? Quando vi chiamerà ad adempiere il vostro dovere civico, gli accorderete la vostra solidarietà? Saprete non restar sordi al suo appello e rispondere da buoni patrioti presente? Il signor di Norpois faceva a Bloch queste domande con una veemenza che lusingava il mio ex compagno nel momento stesso in cui lo intimidiva. L'ambasciatore, infatti, sembrava rivolgersi, per suo tramite, a un intero partito, interrogando Bloch come se fosse depositario delle sue confidenze e potesse assumersi la responsabilità delle decisioni che esso avrebbe prese. «Se voi non disarmaste», riprese Norpois, senza attendere la risposta collettiva di Bloch, «se prima ancora che fosse asciutto l'inchiostro del decreto istitutivo del procedimento di revisione, voi, obbedendo a non so quale insidiosa parola d'ordine, non disarmaste, ma vi confinaste in una sterile opposizione che appare a taluni come l'ultima ratio della politica, se, dico, vi ritiraste sotto la tenda e bruciaste le vostre navi, non fareste, credetemi, che il vostro stesso danno. Siete forse ostaggi dei fomentatori di disordine? Vi siete impegnati con loro?» Bloch era imbarazzato, non sapeva che rispondere. Il signor di Norpois non gliene lasciò il tempo. «Se, come voglio credere, la risposta è no, e se avete anche solo un briciolo di ciò che, malauguratamente, mi sembra faccia difetto a certuni dei vostri capi amici, l'intelligenza politica, il giorno in cui l'assise penale verrà investita dell'affare, voi, se non vi lascerete imbrigliare da chi pesca nel torbido, voi, quel giorno stesso, avrete partita vinta. Non metto la mano sul fuoco che tutto lo Stato Maggiore se la cavi impunemente, ma sarà già una gran cosa se una parte, almeno, potrà salvare la faccia senza dar fuoco alle polveri. Va da sé, d'altronde, che spetta al governo ristabilire il diritto a chiudere la troppo lunga lista dei delitti impuniti, non certo per soggiacere alle istigazioni socialistiche di non so quale soldatesca», aggiunse Norpois, fissando Bloch negli occhi e forse con il calcolo istintivo, comune a tutti i conservatori, di assicurarsi appoggi nel campo avversario. «Il governo deve agire senza preoccuparsi dei ricatti, da qualsiasi parte provengano». «Grazie a Dio, il governo non è agli ordini del colonnello Drian né al polo opposto del signor Clemenceau. È necessario neutralizzare gli agitatori di professione e impedire che rialzino la testa. Ciò che desidera la Francia, nella stragrande maggioranza, è il lavoro nell'ordine. Per quanto mi riguarda, non ho altra religione, ma non bisogna temere di illuminare l'opinione pubblica. E se qualche pecora, di quelle così note al nostro Rabelais, si gettasse a testa bassa nell'acqua, converrebbe mostrarle che è acqua torbida, che è stata intorbidata a bella posta da una genia tutt'altro che nostrana, per dissimulare i pericoli del fondale. E non dovrà il governo dar l'impressione di uscire controvoglia dalla sua passività quando si deciderà ad esercitare un diritto che è essenzialmente suo. Quello di mettere in moto Madama Giustizia. Accetterà, è chiaro, tutti i vostri suggerimenti. Se risultasse che c'è stato errore giudiziario, potrà contare su una maggioranza schiacciante, cosa che gli consentirebbe di guardare al futuro. «Voi, signore», disse Bloch, rivolgendosi al signor d'Argencourt, al quale era stato nominato in una sorta di presentazione collettiva, «sarete certamente dreyfusista. Tutti lo sono all'estero». «Già, è un affare che riguarda solo i francesi fra di loro, non è vero?» replicò il signor d'Argencourt con quella particolare insolenza consistente nell'attribuire all'interlocutore un'opinione che non può essere la sua, dal momento che ne ha appena espressa una completamente diversa. «Bloch arrossì». Argencourt sorrise guardandosi intorno. E se fu, mentre lo rivolgeva agli altri, un sorriso ostile a Bloch, quando alla fine lo arrestò sul mio amico, egli provvide a temperarlo di cordialità, onde non offrirgli il pretesto di ritenersi offeso da parole che non per questo diventavano meno crudeli. Madame de Guermantes gli sussurrò all'orecchio qualcosa che non udì, ma che doveva riguardare la religione di Bloch, giacché il volto della duchessa assunse, per un istante, la tipica espressione alla quale il timore d'essere notati dalla persona di cui si parla conferisce qualcosa di sedante e di falso, assieme alla gaiezza curiosa e maligna ispirata da un raggruppamento umano rispetto al quale ci sentiamo radicalmente strani. Per riguadagnare terreno, Bloch si rivolse al duca di Châtellerault. «Voi, signore, che siete francese, saprete certamente che all'estero sono dreyfusisti, anche se c'è chi pretende che in Francia nessuno sappia cosa succede all'estero. Del resto, so che con voi si può parlare, me l'ha detto Saint-Lieu». Ma il giovane duca, sentendo che erano tutti contro Bloch ed essendo per indole, cosa alquanto comune in società, un vile, capace tuttavia di un'arguzia preziosa e mordente che sembrava aver preso, per atavismo, dal signor di Charlieu. «Perdonatemi, signore, se non discuto con voi dell'affare Dreyfus. Ne parlo, per principio, solo con discendenti di Jafet». Tutti sorrisero, tranne Bloch. Non che non avesse egli stesso l'abitudine di ironizzare sulle proprie origini ebraiche, su quanto in lui aveva a che fare col Sinai, ma invece d'una di tali frasi ironiche, che evidentemente non erano pronte, lo scatto della macchina interiore ne fece salire un'altra alle sue labbra, e ciò che fu possibile udire fu soltanto un «Ma come fate a saperlo? Chi ve l'ha detto?» quasi lo pronunciasse il figlio di un forzato. E dato il suo nome, che non ha un suono esattamente cristiano, dati i suoi lineamenti, il suo stupore non appariva esente da una qualche ingenuità.